L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. In questi periodi di vari isolamenti, abbiamo messo a dura prova la nostra resistenza fisica e soprattutto psicologica. Siamo costretti a limitare la nostra libertà di spostamento, di azione e quindi anche di svago, che è molto importante. Esistono delle professioni nelle quali appunto si è costretti anche a lavorare in questo modo, cioè a lavorare in isolamento per lunghi periodi, in spazi anche ristretti, angusti e senza la possibilità appunto di incontrare i parenti, gli amici, i famosi congiunti. E quindi adesso noi siamo in grado di comprendere meglio quali difficoltà questi lavoratori devono affrontare, come superino i momenti critici e, se può essere di aiuto, come si preparino ad affrontare appunto i periodi di isolamento forzato. Pensiamo ad esempio ai ricercatori che lavorano nelle basi antartiche per quasi un anno, oppure agli astronauti appunto costretti così tanto tempo lontano da casa, e adesso sarà sempre più così con le future missioni verso Marte, con la base sulla Luna. Denise Ferravanti, psicologa e ricercatrice ENEA, benvenuta. Grazie, un saluto a tutti. Lei appunto lavora all'ENEA e proprio su questo, lei è responsabile del reclutamento, del training e del supporto psicologico che viene fornito al team che viene chiamato Winter Rover, ovvero quei ricercatori che passano oltre 13 mesi in Antartide, anche d'inverno, quindi con temperature che sfiorano i meno 80 gradi. Ma com'è possibile prepararsi ad un isolamento così duro e duraturo? Sì, noi ogni anno vengono effettuate le missioni invernali in Antartide, oltre a quelle estive, in cui l'ENEA organizza la parte logistica e il CNR la parte scientifica. È un'esperienza molto difficile perché loro vivono in un ambiente estremo e sono totalmente isolati per 9 lunghi mesi, e soprattutto c'è l'isolamento e l'impossibilità di andare via da quella situazione. Quindi che cosa facciamo per prepararli a tutto questo? Innanzitutto li selezioniamo, quindi cerchiamo delle persone che abbiano delle caratteristiche di personalità, di maggiore adattabilità, di flessibilità e anche di quello che noi psicologi chiamiamo locus of control interno, cioè la capacità e la possibilità di assumersi le responsabilità delle loro azioni e di essere proattivi, propositivi. Dopodiché li formiamo attraverso un percorso di training piuttosto lungo e articolato, in cui c'è una parte tecnica di formazione e di informazione, una parte molto importante legata al rescue, cioè alla sopravvivenza in caso di emergenza, in modo tale che a livello psicologico, se dovesse succedere poi qualcosa in un ambiente estremo, mette a rischio la loro vita, li addestriamo attraverso anche nel training il supporto delle guide alpine a fronteggiare situazioni di emergenza senza spaventarsi, senza entrare nel panico, ma stabilendo delle procedure che poi in caso appunto di necessità sono già in grado di utilizzare. Mentre dal punto di vista psicologico lavoriamo molto sul team, quindi sulle relazioni interpersonali, sulla capacità di gestire i conflitti. Però insomma noi per il virus ci siamo trovati chiusi in casa, ma se a un certo momento uno aveva un'emergenza, usciva in strada, mentre invece qui c'è una componente forte, non parliamone poi per i viaggi spaziali, cioè questa sensazione di non essere recuperabili. Assolutamente sì, ed è anzi dal punto di vista psicologico una delle cose più stressanti e più difficili da accettare, perché qualsiasi cosa succeda durante i 9 mesi di isolamento non c'è nessun mezzo né di aria né di terra che può andare a recuperare le persone. È proprio per questo motivo che noi innanzitutto chiariamo molto bene già in fase di selezione questo aspetto, in modo tale che le persone responsabilmente sanno anche a che cosa vanno incontro, ma poi diamo anche rassicurazioni e lavoriamo insieme a loro su questo, proprio per dire come in realtà, pur essendo un ambiente estremo, ma se tutti agiscono in maniera responsabile e se tutti anche adottano le necessarie precauzioni. Anche in questi giorni noi stiamo parlando tanto di precauzioni, di dispositivi, di protezione, eccetera. È un po' quello che stiamo facendo anche noi, la stessa cosa vale per loro, cioè tutelarsi quando escono all'esterno a 80 gradi sotto zero di temperatura, avvertire, mantenere sempre le comunicazioni e essere appunto responsabili e sapere che il pericolo è sempre in agguato, in modo tale da evitare di mettersi appunto in condizioni di pericolo e mantenere il benessere personale anche di tutto il resto del team. Devo dire che siamo arrivati alla 16ª spedizione e tutto è andato sempre molto bene, anzi chi torna dalle spedizioni in Antartide annuali, quelle invernali, molti di loro vogliono rifare l'esperienza, si ricandidano per ripetere l'esperienza, quindi questa è la prova che è un'esperienza molto positiva nonostante le difficoltà e le criticità. Non ci dimentichiamo che, come così nello spazio anche per l'Antartide, le persone sanno che stanno facendo qualcosa di eccezionale che li motiva, che li rende molto fieri di quello che fanno. Lei collabora appunto, lo ha detto, anche con l'Agenzia Spaziale Europea su dei progetti che hanno proprio l'obiettivo di studiare un isolamento prolungato, a cui saranno appunto sottoposti gli astronauti che ad esempio viaggeranno verso Marte. Lì davvero ci metteranno un anno e mezzo tra andate e ritorno, forse anche di più. Anche questo è un aspetto molto interessante che dal punto di vista psicologico lei sta valutando, sta studiando, perché ci sono numerosissimi aspetti da tenere in considerazione. Sì, qualche anno fa c'è stato il grande esperimento di simulazione di una missione di lunga durata che era Mars 500, in cui 6 astronauti sono rimasti isolati per 520 giorni, un anno e mezzo. Erano in una base che era vicino Mosca, però di fatto erano isolati, chiusi dentro questa navicella spaziale dove la temperatura era costante, dove non c'era illuminazione esterna, dove in tutto e per tutto c'era una simulazione di una navicella spaziale che presumibilmente sarà simile a quelle che andranno poi su Marte. Io sono anche ero coinvolta lì con un progetto di ricerca. Sta per partire un altro esperimento che si chiama Sirius, sempre Agenzia Spaziale Europea, Agenzia Spaziale Russa, anche con la collaborazione della NASA, di un ulteriore appunto esperimento di isolamento che inizialmente sarà di 8 mesi e poi una fase successiva di 12 mesi, sempre per prepararci dal punto di vista della ricerca agli effetti delle spedizioni di lunga durata, perché chiaramente tutti gli effetti che noi vediamo anche nel breve termine saranno presumibilmente amplificati con la monotonia e la noia. Come sappiamo, noi siamo, l'essere umano è un animale sociale, quindi ed è abituato ad avere molte interazioni ed è nato, creato per questo. C'è la possibilità di dare anche spazio alla creatività, come dire, per inventarsi anche delle cose che soddisfino le esigenze proprio ludiche delle persone, il divertimento. Quindi per esempio quando parliamo di Concordia, quindi dell'Antartide, intanto c'è un periodo ben preciso dell'anno che si chiama midwinter, che è esattamente a metà dell'inverno, quando tutte le basi antartiche hanno 3-4 giorni di festeggiamenti, nonché anche durante il resto dell'anno si organizzano festeggiamenti particolari per i compleanni, cioè sono quelle carezze che noi chiamiamo dal punto di vista psicologico, che riscaldano il cuore, cioè l'essere umano per fortuna ha la creatività, che è proprio un elemento che permette di sopravvivere meglio a queste situazioni. Va bene, grazie Ferravanti, davvero un buonissimo lavoro per le prossime missioni e per le prossime attività anche in Antartide. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie e buona ricerca. Un saluto, grazie. Nelle nostre trasmissioni ci occuperemo spesso di questioni che riguardano l'ambiente, l'emergenza ambientale, che è un tema sul quale di per sé dobbiamo prestare tutti molte attenzioni, ma poi dal punto di vista scientifico, tecnico e anche dell'innovazione è uno scenario sul quale si sta creando insomma una sfida di enorme importanza. Sappiamo anche che è una sfida che non possiamo perdere, quindi tutto ciò che è ricerca nel trovare strumenti per riuscire ad ottenere il massimo della sostenibilità e quindi il risparmio in tante

Noi che per esempio importiamo alcuni materiali, metti, telefonini, li importiamo, non li produciamo in Italia, ma altri materiali tecnologici li importiamo e non li produciamo in Italia. Al momento in cui vengono rigenerati, noi creiamo occupazione qui e abbiamo un'attività, quella del manufacturing, che diventa a alta intensità di lavoro e a bassissima intensità di consumo di materia. Quindi c'è cioè, tutta una tendenza che porta anche a cambiare l'organizzazione del lavoro, l'occupazione e la ridistribuzione dei redditi. Bene, staremo a vedere, siamo qui insomma per raccontare un po' questa trasformazione, soprattutto dal punto di vista dell'innovazione e della tecnologia, che è il nostro core. E che conta tantissimo in questo settore. Grazie Quasè. Grazie Quasè. Grazie a voi, buona giornata. Certo che a pensarci bene, appunto, se riuscissimo davvero a riutilizzare quelli che adesso sono solo meri rifiuti, certamente sarebbe una rivoluzione incredibile, sia per noi occupanti di questo pianeta, ma anche ovviamente per tutte le imprese e le aziende. E qui mi viene da aggiungere che è il caso che questi finanziamenti, purtroppo generati dal Covid, che però arriveranno dall'Europa, sarebbe interessante utilizzarli anche per nuovi orizzonti, per nuove potenzialità che tra l'altro hanno anche una dimensione economica e di lavoro molto importante. Sembrerebbe che le direttive europee stiano andando proprio in quella direzione, infatti in autunno ci saranno delle grandi novità. Va bene, grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito fin qui. Ci sentiamo lunedì per la prossima puntata in podcast. Ci trovate sul sito www.radio24.it. Ciao a tutti. Ciao. Da Ravenna, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.